No, no, siamo contenti, devo dire che siamo anche un po' stupiti perché questa amministrazione comunale, insediandosi, aveva dichiarato saremo un comune da combattimento e poi invece succede che ti stralciano le richieste che avevano suggellato il patto di maggioranza con cui ti eri candidato alle elezioni amministrative e il sindaco si dichiara felice e contento come se nulla fosse. Dal nostro punto di vista ci sono due questioni fondamentali su questo tema in questi giorni. La prima è il tema della salute dei cittadini. Non si può avviare un cantiere senza aver verificato che quel cantiere e quell'opera non danneggeranno la salute dei cittadini, e questa è una delle cose che sono state rifiutate da Società Autostrade, e ci pare inverosimile andare avanti come se nulla fosse senza prima verificare questa cosa. Il secondo tema ha a che fare con il futuro di questa città, una città che ha dichiarato di voler essere tra le prime 100 a guidare la transizione climatica in Europa, che ha dichiarato l'emergenza climatica, ma se si dichiara un'emergenza bisogna anche essere consapevoli e pronti, ce l'ha purtroppo insegnato la pandemia, a prendere misure emergenziali. Quello del passante è un progetto del secolo scorso, del Novecento, non guarda al futuro, non guarda al benessere dei cittadini, non permette ai tanti pendolari che ogni giorno sono in coda per raggiungere il posto di lavoro di avere un'alternativa credibile, seria, sicura, veloce e comoda, e di fatto mette a rischio il futuro di tanti giovani, perché contribuisce ovviamente a rafforzare ancora di più l'emergenza climatica. Noi non pensiamo che la soluzione sia semplicemente elettrificare il trasporto privato, non possiamo certo permetterci di produrre miliardi di auto elettriche, e anche se lo facessimo questo avrebbe un costo ambientale evidentemente molto alto. Dobbiamo cambiare il modo di muoverci, lo possiamo fare, pensiamo che si possa fare spostando gli investimenti dall'asfalto ad altri sistemi di trasporto. C'era anche la questione delle coperture per ridurre le emissioni che poi finiscono su tutta la città. Tra le cose accettate ci sono i pannelli fotovoltaici, le colonnine elettriche, e particolare Lepore ha commentato la risposta di Autostrade del Ministero dicendo che erano altri gli enti a cui fare quelle domande. Ma sì, a questo punto ci sorprende che il Comune quest'estate l'abbia fatta però a Società Autostrade e al Ministero. Il sindaco può porre a questo punto queste domande a chi di competenza, ma ci pare il minimo aspettare delle risposte definitive e decisive. Pensiamo che non si possa dire andiamo avanti coi cantieri e poi si vedrà se la salute dei cittadini sarà tutelata e poi si vedrà se avremo modo di abbattere le emissioni oppure no. Questo è un progetto su cui si vuole correre a tutti i costi, replicando un modello che abbiamo già visto di grandi opere che devono essere fatte per poter rispondere a degli interessi precisi di nuove costruzioni, nuova cementificazione. Noi crediamo che sia il tempo di fermarsi, di guardare al nostro futuro, di pensare appunto a come arrivare al 2050 costruendo una città climaticamente neutra, e per farlo, ripetiamo, dobbiamo spostare persone e merci dalle strade e permettere loro di muoversi in altri modi. Finché investiremo sulle strade continueremo a produrre nuovo traffico. Un'ultima domanda più politica: tu prima ricordavi che questa nuova versione del passante, che vabbè Lepore aveva chiamato Green, però era stata anche alla base dell'accordo della maggioranza che ora governa Palazzo d'Accursio, le forze che avevano posto dei vincoli, ora cosa dovrebbero fare secondo te? Ma noi pensiamo che sia naturale a questo punto votare no alla delibera che arriverà in Consiglio Comunale e respingerla, perché non c'è alcuna garanzia che i vincoli possano essere poi rispettati, e senza garanzie crediamo non si possa approvare un'opera di questa ampiezza, di questa dimensione e di questo impatto sulla città.